dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta oggi dal Festival dell'Economia di Trento, dalla postazione di Radio 24 che sta seguendo il festival con tante dirette in questi giorni. Siamo in piazza Pasi, siamo qua, l'altra Europa, l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, l'Europa che ci piace raccontare, l'Europa delle possibilità e delle opportunità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, di cui oggi parleremo. Una settimana importante, ci sono state le elezioni, la politica, l'economia, l'attualità europea viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, ma questa è stata una settimana che potrebbe veramente cambiare un po' questa Europa. E anche di questo oggi ne parliamo qui dal Festival dell'Economia. Vi presento subito i primi ospiti con me in studio. Diamo il benvenuto a Marc Lazar, politologo della LUIS e docente di sociologia politica presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi. Buongiorno Lazar. Buongiorno. Come è stata una settimana tosta per voi? Assolutamente, sì. Ma più da politologo o più da francese? Perché... Le due cose. Come francese è molto difficile, diciamo. Tante domande. Ma anche per l'Europa. Anche per l'Europa, sì. Ne parleremo anche con Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Questa sì che è altra Europa. Ciao Luisa, ben ritrovata. Buongiorno a voi. E poi Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24 e una, insomma, delle colonne importanti dell'Europa raccontata dalla nostra radio. Ciao Gigi. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Partiamo proprio da te, che settimana è stata? Come è stata raccontare queste elezioni? È stato intenso, come dicevi, tosta per la Francia, non solo, anche per noi, insomma, non abbiamo scherzato tra sondaggi, poll completamente sovvertiti e il racconto di una complessità. Io direi che mi piace segnalare una cosa. Abbiamo detto tante volte nel corso degli ultimi mesi di quanto sia in crisi, di quanto fosse in crisi questa Europa. Bene, ne abbiamo parlato davvero tanto questa volta, al di là di tutti gli aspetti interni dei singoli paesi, e continuiamo a farlo. Forse questa è la maggior novità di queste ore, quando vediamo, tanto per citarne uno, ma ce ne sono diversi di movimenti, gli incontri Grillo-Farage e il dibattito che si porta dietro, beh, forse in realtà stiamo assistendo a qualcosa che nel passato europeo non esisteva, cioè la proiezione al di fuori dei confini nazionali di quello che sono state appunto le elezioni. E forse è un primo punto interessante. In questi anni tante volte abbiamo detto che la crisi è stata una sorta di marketing europeo, anche nel senso che grazie o a causa della crisi si è parlato molto di Europa. Un po' il rischio adesso che l'antieuropeismo diventi la leva per parlare di Europa, però è importante che ci sia confronto, che ci sia discussione. Lazar, andiamo a vederla questa nuova Europa. Oggi ci sarà questa tavola rotonda, la nuova classe dirigente europea alle 18:30 presso il Palazzo della Provincia, ed è un po' la domanda a cui si cerca una risposta ora. Tanto è davvero una nuova classe dirigente europea? Questo è da dimostrare, perché bisognerebbe sapere chi compone, qual è la composizione di questa classe dirigente. Ovviamente una parte di cittadini europei, non tutti, hanno votato per il Parlamento europeo, perché questa è la prima riflessione da fare. C'è il tasso di astensionismo, che è stabile in confronto alle elezioni del 2009, abbastanza basso come sappiamo. Cosa forse non troppo preoccupante, nel senso che quando si guarda per esempio gli Stati Uniti a livello federale c'è un stato di astensionismo più o meno equivalente. Più preoccupante è il fatto che nei nuovi paesi che sono entrati nell'Europa l'astensionismo è stato forte. Però, per rispondere alla sua domanda, abbiamo ormai un Parlamento composto per la prima volta da un insieme molto diverso di euroscettici, molto diverso. Dobbiamo essere molto prudenti, perché ovviamente sono, noi diciamo, noi giornalisti, commentatori, osservatori, parliamo di questa spinta populista euroscettica. Sicuramente non voglio dire che è stata minore, però è molto diversa, e si vede bene appunto con le grandi difficoltà di Grillo, con chi allearsi a livello europeo, la scelta diversa della Lega che andrà con il Front National, non è ancora sicuro che ci sarà un gruppo, eccetera. Quindi c'è questa dimensione di una componente nuova del Parlamento che ha un effetto politico, forse avrà un effetto minore all'interno del Parlamento, perché avranno meno peso sul Parlamento, però il Parlamento ormai vuole avere più potere, mentre il Consiglio, cioè i capi di Stato e di Governo, rallentano. Quindi avremo una situazione complessa, però per chiudere questo ragionamento, credo che la grande lezione di queste elezioni europee è che ormai siamo in un ambito europeo nel quale una parte degli europei rigetta e a volte odia le classi dirigenti, non solo politiche, ma anche economiche, imprenditoriali, culturali, mediatiche, accademiche. E in questo contesto è chiaro che il grande problema è di ricostituire una legittimità per le classi dirigenti. Insomma, classe dirigente, crescita e bene comune è anche il tema di questo festival dell'economia, quindi è assolutamente centrale in questa attualità, in questa contemporaneità. Ci fermiamo, ripartiamo poi da questi ragionamenti anche con Luisa, magari ci dai qualche flash di come voi avete raccontato le elezioni nei nuovi paesi, perché appunto c'è stato un accenno dalla Zarma, da lì insomma ci sono stati segnali importanti. Ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con l'Altra Europa in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. L'Altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta dal Festival dell'Economia di Trento con l'Altra Europa e Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Partiamo da lì, dalla Croazia, un po' come emblema dei paesi nuovi, ma anche quello che è successo in altri stati. Che elezioni sono state per questi paesi? Ma diciamo che accomunati sai paesi dell'Unione Europea che noi seguiamo dell'area balcanica sono tutti accomunati sicuramente dalla scarsa affluenza alle urne, che però appunto non è una novità, anzi in alcuni casi è andato anche un po' meglio del passato. Sono tutti tra il 20 e il 30% di votanti. Qui sì, la crisi di cui parlavamo prima della legittimità delle classi dirigenti è particolarmente evidente, ma ha anche ragioni storiche e anche sono paesi giovani in termini democratici, quindi bisogna lasciare loro il tempo di maturare un rapporto diverso, e per di più hanno vissuto la democrazia liberale in anni difficili, perché non appena avevano passato gli anni 90 delle guerre o del post-comunismo, poi appena iniziata una crescita nei primi anni 90, poi si sono stati travolti dalla crisi finanziaria globale dal 2008 in avanti, e l'hanno pagata molto cara, molto più cara di noi. Quindi questo rapporto difficile di cittadini e classe dirigenti è anche fortemente determinato da questo. Dopodiché sono anche paesi molto vivaci, nei quali la Croazia in 6 mesi si è inventata un nuovo partito dei Verdi che ha raggiunto un seggio, ha guadagnato un seggio al Parlamento Europeo, e quindi, come dire, sono anche contesti dinamici dove le cose si trasformano velocemente, nonché dei Balcani che seguiamo, insomma la Grecia è un paese piccolo, in crisi, ha comunque saputo esprimere un candidato alla presidenza della Commissione Europea, quindi sono davvero paesi che vanno seguiti, molto diversi tra di loro, anche se sono paesi piccoli e sono a loro volta molto complessi. In un caso il governo è stato premiato come tra virgolette premiato come in Romania, invece in Bulgaria il governo socialdemocratico è stato duramente colpito, quindi vanno seguiti davvero giorno per giorno per capire che cosa succede a queste parti. Una domanda, la stessa domanda sia a Donelli che a Lazzaro, in questo nuovo bisogno di creare un rapporto diverso tra cittadini e classe dirigente, il racconto dell'Europa prende importanza, un nuovo modo di raccontare l'Europa. Immagino che anche per te, Gigi, questi siano stati giorni di contatto con gli altri colleghi, per esempio di Euronet, le tante radio con la rete, senz'altro. Con la rete, no? E tante opinioni, tante voci, tante indicazioni. C'è l'esigenza, c'è una responsabilità di un racconto nuovo di questa Europa? Sì, devo dire che non vorrei apparire presuntuoso, ma in fondo è quello che facciamo almeno dagli ultimi 3 anni, cioè mettere insieme 14 radio europee intorno al racconto dell'Europa già implica un cambio di passo, un cambio di contenuti, uno scambio di contenuti, perché questa poi è la parte migliore del lavoro, almeno lo dico giornalisticamente parlando, poi spero ovviamente che piaccia anche agli ascoltatori, ma dello scambio e di come le nostre diverse visioni dell'Europa si stanno appunto concatenando. Ecco, forse da questo punto di vista questa visione a 14, perché lo ricordo, Euronet Plus attualmente raggruppa 14 radio nazionali appunto di altrettanti stati europei, in qualche modo ci ha permesso di anticipare un po' gli eventi, cioè l'ondata dell'euroscetticismo ce l'hanno portata i nostri colleghi ungheresi da tempo, ce l'hanno raccontata i nostri colleghi olandesi, e nello stesso tempo Io oggi forse risulto un po' più ottimista della media, nel senso che adesso l'abbiamo misurato a questo euroscetticismo che, come diceva il professor Lazar, tra l'altro è molto differenziato al suo interno. Bene, prima era l'ondata, adesso abbiamo dei numeri che sono assolutamente importanti e penso anche doverosi, perché in fondo usciamo da quel periodo dell'innocenza dell'Europa in cui andava bene tutto, perché comunque era il superamento della guerra, del conflitto franco-tedesco. Bene, questo, che pure rimane importante, è storia, adesso si ripensa, però con dei numeri in cui, non dimentichiamo, la gran maggior parte degli europei è assolutamente filoeuropea e per interesse, e questa è una buona notizia. Il voto in Francia, Lazar, è stato un voto contro l'Europa o contro Hollande? Io direi entrambi le cose, cioè sicuramente il voto in Francia è caratterizzato da un scetticismo sull'Europa da una parte dell'opinione, minoritaria, perché se si aggiunge i voti dell'UMP, cioè il partito di centrodestra, del partito socialista, dei centristi e dei verdi, si vede che per quelli che hanno votato rimane una dimensione pro-europea. Però è vero che c'è una dimensione di critica, di rabbia, di colera, di critica di questa Europa, perché quello che è stato detto mi sembra molto importante. In tutti i sondaggi la maggioranza di francesi vuole l'Europa, vuole rimanere in Europa e vuole l'euro, cioè non vuole uscire dall'euro. Questo è sicuro. E poi c'è questa caratteristica francese che di un'impopolarità record mai conosciuta nella storia della Quinta Repubblica, quindi dal 1958, da un Presidente della Repubblica, il Presidente François Hollande, che è il livello più basso. E quando si vedono i sondaggi, la maggioranza dei francesi si dice: ho scelto questo voto in considerazione dell'Europa, però quando si guarda all'interno di quelli che hanno detto mi pronuncio per un problema nazionale, una maggioranza relativa all'interno di questo quadro ha deciso di colpire il Presidente della Repubblica François Hollande. Quindi c'è un grosso problema, un'equazione personale di Hollande molto difficile e preoccupante per i 3 anni che rimane come Presidente della Repubblica. Spunti e suggestioni importanti, e continuiamo a parlare di questa Europa, di questo racconto anche nuovo dell'Europa. Luisa, con l'Osservatorio Balcani e Caucaso da anni fate questo racconto altro dell'Unione che sarà, dei paesi che sperano di entrare, che stanno tentando di entrare, che forse un giorno entreranno nell'Europa, cercando anche di anticipare quelli che possono essere scenari futuri. Come, cosa che fate sul portale quotidianamente, anche organizzando convegni, ne avete appena questa settimana, avete parlato del futuro dell'Europa da un punto di vista molto particolare, vero? Beh sì, ci siamo occupati di Ucraina, che naturalmente è la grave crisi europea del momento e nella quale l'Europa non ha avuto una voce comune, e quindi è forse proprio l'assenza dell'Europa o una sua presenza disomogenea con troppi interessi particolari che si venivano portati avanti in maniera contrastante uno con l'altro, che l'Europa si è presentata nel conflitto o nella crisi ucraina, e con questo non ha aiutato, anzi alla fine è stato parte del problema invece che della sua soluzione, perché in Europa appunto quando si riesce a esprimere una voce sola come frutto di tutta questa diversità, sicuramente in ambito di politica estera si riesce a fare molto meglio. E un convegno con tante voci, tra le quali anche quella di Giorgio Comai, ricercatore dal Dublin City University e membro della rete europea Marie Curie, esperto sulle tensioni post-sovietiche. Ciao Giorgio, benvenuto. Che Europa può nascere dalle ceneri dell'ex Unione Sovietica e i venti che soffiano da quelle parti, che influenza possono avere sulla nostra Unione? Beh, la situazione che abbiamo visto in questi mesi in Ucraina ha portato, ha messo, in qualche modo ci ha obbligato a porci delle domande su quale Europa vogliamo ancora una volta. E negli anni scorsi abbiamo visto un'Europa che è intervenuta nei paesi della sua crisi interna, quindi pensiamo a Cipro, alla Grecia, eccetera, intervenendo con piani a fianco del Fondo Monetario Internazionale per superare la cosiddetta crisi economica. E la crisi in Ucraina non è solo appunto una crisi di interessi, uno scontro in cui appunto si sono posti interessi europei, russi e via dicendo, ma prima di tutto l'Ucraina oggi è un paese in una profonda crisi economica in cui l'Unione Europea sta affiancando il Fondo Monetario Internazionale chiedendo profondi tagli all'economia locale, quindi blocco delle assunzioni, aumento delle tasse, aumento dei costi dell'energia per le utenze private. Quindi anche in questo momento l'Unione Europea deve chiedersi come vuole intervenire in questo contesto, se vuole porsi un'altra volta come a tutela, diciamo, come, avendo come primo punto di riferimento la stabilità macroeconomica e la necessità di ripagare il debito subito ad ogni condizione, oppure se vuole in qualche modo cercare di avere un ruolo più costruttivo e cercare di facilitare questa transizione difficilissima, perché il rischio vero per l'Europa che si sta creando in questa regione è che se questa fase sarà eccezionalmente difficile per la popolazione ucraina, verrà probabilmente a mancare il consenso che è stato alla base delle proteste che abbiamo visto nei mesi scorsi. Il futuro dell'Europa dipende dall'Ucraina? Questa è la domanda, qui è complicato dare una risposta. Gigi, ho visto che avevi un'agenzia che... Sì, semplicemente per ricordarci come 5-6 giugno l'Eliseo, dunque torniamo a Parigi momentaneamente, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la presenza in Francia il 5-6. L'occasione è i festeggiamenti, insomma le celebrazioni dello sbarco in Normandia, ma sappiamo benissimo che si cerca un momento per fare incontrare dei leader che nelle scorse settimane e mesi, insomma, si sono guardati in cagnesco. Lazar, prima di salutarci, un auspicio, se potesse avere una bacchetta magica per questa nuova classe dirigente europea, perché le prossime settimane saranno appunto decisive per il futuro di questa Europa, di cui speriamo non se ne parli poi solo tra 5 anni, ma che appunto rimanga tema caldissimo. Qual è l'auspicio, se lei potesse veramente scegliere, se potesse farsi ascoltare da Bruxelles? No, innanzitutto non bisogna dire Bruxelles, perché appunto subito c'è questa idea che tutta la colpa viene da Bruxelles. No, viene da noi e viene dal fatto che forse con questo risultato delle elezioni, questa spinta ancora una volta di euroscettici, populista eccetera, con sfumature perché non è stata un'onda, però è vero che i nostri leader abbiano la capacità non solo di sentire quello che è uscito dalle urne, ma che abbiano la capacità forse di ripensare la politica economica, la politica in generale dell'Europa. Ovviamente siamo sotto questa crisi, però c'è anche questo problema della narrazione, la narrativa, credo che dite voi così in italiano, che è stata fondata storicamente sui 3P, cioè pace, prosperità e protezione. E ovviamente la pace ormai è forse minacciata sui confini, quindi bisogna di avere una politica estera. La prosperità c'è relativamente a altri continenti nel mondo, però è da ripensare con una crescita economica, e la protezione sociale è stata completamente tagliata, cioè non totalmente, però ridimensionata con la crisi economica, e sicuramente non si farà come è stata nel passato, ma è da reinventare. Da questo punto di vista, non è solo perché sono invitato a Trento e sono in Italia e sono un pro-italiano, però la grande novità di questa elezione viene dall'Italia. Questo sicuramente, cioè avete un leader, Matteo Renzi, che ha vinto la grande elezione per diverse ragioni, che è giovane, che ha un programma, vedremo se è capace di essere il uomo di Stato che tutti aspettano, però le sue dichiarazioni, la sua energia, il suo dinamismo fanno soffiare un vento che viene da tanto tempo, l'aspettavamo, dall'Italia come all'inizio della costruzione europea. Sarà capace di convincere gli altri dirigenti? Credo che lui ha capito molte cose, e forse la speranza viene dall'Italia. Io lo dico dopo 20 anni di Berlusconi, nel quale tutta l'Europa diceva l'Italia è l'uomo malato dell'Europa, forse ormai è il mio paese, quindi le situazioni sono rovesciate, però un po' di speranza francamente viene da voi. Grazie davvero, salutiamo anche Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso, la cui sede è qui a Rovereto, no? È Rovereto, è Rovereto, quasi in casa. Luisa, prima di salutarci, vuoi proprio dirci un paio di progetti su cui state lavorando qui? Ma sai, noi lavoriamo, sì, lavoriamo a tutto campo, sai, seguiamo la cultura, abbiamo dato spazio alla Palma d'Oro vinta dalla Turchia a Cannes, ma lavoriamo sulla libertà dei media, abbiamo una delle novità di questi giorni. giorni il lancio di una piattaforma di crowdsourcing cosiddetta, cioè di raccolta di fonti dirette dai protagonisti, in questo caso sulla libertà di stampa in Europa, una delle cose su cui una comunanza di azione politica potrebbe fare la differenza. E quindi chiediamo in 33 paesi, in 20 lingue, contribuiamo a questo sforzo di raccolta dati da parte dei giornalisti stessi che ci raccontino dalla Turchia, da Cipro, da tutta Europa, che cosa sono, cos'è che limita la loro attività, da dove vengono le minacce, che siano il web, che siano la concentrazione finanziaria, che siano invece la flessibilità del lavoro che come sappiamo colpisce molto il settore. Ricordaci l'indirizzo? www.balcanicaucaso.org. Perfetto, un grazie a Luisa Chiodio, un grazie a Mark Lazar, un grazie a Giorgio Comai, e ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua in diretta dal Festival dell'Economia di Trento con l'Altra Europa. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, siamo sempre al Festival dell'Economia di Trento. Classi dirigenti, crescita e bene comune, il tema di quest'anno, noi come sempre cerchiamo di portarlo in direzione europea, lo facciamo con Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24, poi c'è stato un cambio di ospiti all'interno del nostro studio qui in Piazza Pasi, e do il benvenuto a Nicoletta Clauser, dirigente del Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, ciao Nicoletta. Buongiorno. E poi Serena Piovesan, collaboratrice e ricercatrice presso l'Università di Trento, ha collaborato a un progetto molto importante che conosceremo oggi, che si chiama SEMIG, un progetto che così aveva come obiettivo quello di capire la gestione delle migrazioni e i suoi effetti nel sud-est Europa. Ciao Serena, benvenuta. Buongiorno. All'Altra Europa. Grazie. L'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, questa è quella che tentiamo di mettere al centro dell'Altra Europa da sempre. Gigi, l'Europa è anche questo, no? L'Europa non è solo il palazzo, l'Europa non sono solo le regole, l'Europa non sono solo le direttive che servono, perché sono gli strumenti. Poi lo fai molto e molto bene. L'Europa è banalmente il roaming, un tema di cui probabilmente interessa molto di più, soprattutto in certe classi di età, che tante appunto dibattiti di filosofia della politica. Dopodiché, anche per arrivare al roaming o alla cancellazione del roaming, serve Europa, evidentemente. L'Europa, che poi è questo, uno pensa all'Europa, ma poi c'è il locale, c'è la dimensione territoriale, ed è quello di cui vogliamo parlare in questo frammento di puntata. Nicoletta, cos'è successo in questi giorni a Trento? Perché c'è stata un'importante iniziativa, un importante atto? Sì, penso che fate riferimento all'approvazione prima della convenzione e lunedì da parte della Giunta del Piano Garanzia Giovani. È un'iniziativa, come tutti state parlando, i media, rivolta appunto, che parte dall'Europa, che ha colto l'occasione del fenomeno purtroppo della disoccupazione giovanile importante che in questi anni sta assillando tutti gli stati e che ha visto insomma noi come Italia dare questa risposta con questo piano. L'abbiamo appena approvato, lo attueremo nei prossimi giorni. Diverse sono le iniziative in collaborazione, noi siamo piccoli, però abbiamo avuto questa opportunità di mettere in pista sia misure rivolte al lavoro, sia però anche l'apprendistato, cioè pensando a quei ragazzi che magari hanno avuto qualche incidente di percorso, vorremmo recuperarli e portarli al diploma, alla qualifica, e poi introdurli proprio nel mondo dell'azienda. E poi ultimo, ma non ultimo proprio, abbiamo attivato anche la misura del servizio civile. Ok. È difficile tradurre sul territorio quelle che sono le indicazioni, quelle che sono le risorse anche che arrivano dall'Europa? Tu sei un po' al centro proprio di questa attività. Beh, diciamo che appunto perché siamo piccoli hanno permesso di concentrare tutta la gestione, perché questo è il Servizio Europa, delle risorse che vengono dall'Europa e delle opportunità che come il Trentino andiamo a cogliere in Europa, perché sono i canali. Diciamo che in questa partita qua ci ha visto lunedì nella predisposizione di questo atto, ma ci sta coinvolgendo da mesi nella preparazione dei programmi operativi, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, del quale il servizio è l'autorità di gestione, dell'immigrazione, abbiamo poi una serie di altri strumenti che cerchiamo di utilizzare in combinato disposto con il bilancio provinciale, che qui ci troviamo con un bilancio che riflette una provincia autonoma. Ecco, le colleghi, una domanda su questo punto: voi quanto lasciate sul tavolo dei fondi europei? Perché questo è un altro dei temi dolenti di una parte del paese, cioè li utilizzate, vedo che proprio... scuote la testa, ecco. Noi proprio... come dire, sapevo la risposta, questo è un altro tema, ne parliamo, no? Dell'utilizzo, cioè le opportunità vanno anche utilizzate, insomma dobbiamo saperle veramente utilizzare, e questo credo, quindi zero questo sul tavolo. Cioè, questo non esiste. Perfetto. Poi ci sono le buone pratiche che insomma andrebbero poi replicate, no? Come l'esperienza trentina. Siamo qui, non ne parliamo bene solo per dovere di ospitalità. E due nodi che sono la comunicazione con i cittadini e la burocrazia, che comunque c'è, insomma è dannoso anche negare il fatto che comunque a volte sia complicato accedere a queste opportunità. Quali strategie avete adottato per cercare di appunto togliere qualche nube? Sulla comunicazione, sempre nell'ottica appunto di, diciamo, di concentrare un attimo tutto quello che ha come minimo, come un denominatore, l'Europa, e il Servizio Europa vede un centro di documentazione europea al suo interno e un Europe Direct che lavorano in combinato disposto sia con l'ufficio di Bruxelles della provincia, sia con tutto quello che può essere il circolo delle biblioteche. Abbiamo fatto proprio rete, lavoriamo con i piani giovani perché crediamo che questo sia il bacino col quale dobbiamo assolutamente crescere, e già da anni facciamo sia un'iniziativa di mobilità, nel senso che cerchiamo di spiegare ai giovani come si può partire con il simbolo di una mongolfiera per l'Europa. Tutti gli anni accorpiamo praticamente in una sala tutte le opportunità, non solo provinciali, cioè della provincia autonoma, ma che possono essere anche in questo caso servizio civile, esperienze di volontariato, cioè andare in Europa con la lingua come mezzo, come dico sempre, non come fine. Quindi cerchiamo di valorizzare il fine perché vuoi andare, e quindi la comunicazione. In questo momento qua di elezioni europee noi ci siamo preparati 6 mesi fa, quindi insomma attenzione, noi... strategia, non lasciare nulla neppure all'improvvisazione. Serena Piovesan, l'Università di Trento, tu hai collaborato per questo progetto, il progetto SEMIG, proprio uno studio approfondito sulle migrazioni e i suoi effetti nel sud-est europeo. Qual era l'obiettivo e soprattutto quali risultati avete ottenuto, che sono fotografie, sono tendenze, sono appunto numeri che però raccontano una realtà, per partire proprio da quella realtà con azioni dirette, con azioni pensate? Sì, il punto di partenza del progetto era quello di fare il punto della situazione per quanto riguarda le rilevazioni statistiche sulle migrazioni, perché ovviamente qualsiasi fenomeno sociale, socio-economico, demografico ha bisogno di dati per essere definito. Quello è il punto di partenza. Il problema che si è posto il progetto è stato quello di dire ci sono molto spesso delle definizioni diverse a livello europeo, per esempio di quella che è la popolazione straniera. Questo complica in molte situazioni la confrontabilità, la comparabilità dei dati fra paesi europei. Noi abbiamo avuto l'esempio, lavorando a stretto contatto con uno dei partner del progetto, che è la Romania, confrontavamo le statistiche sui rumeni residenti in Italia con le statistiche rumene sui loro emigrati, e vedevamo che c'è un totale scollamento, circa 1 milione di rumeni che si perdono nelle statistiche nazionali rumene. Quindi fare il punto di quelli che sono ancora i limiti, sia a livello nazionale che per ogni singolo Stato, sia a livello europeo, delle rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, sugli occupati, che questo è un tema insomma centrale, vedere quelle che sono a livello nazionale le proposte per migliorare queste rilevazioni. Noi abbiamo lavorato a stretto contatto con l'Istat e abbiamo cercato di capire cosa può fare l'Istat e cosa possono fare anche per esempio le anagrafi locali per migliorare la registrazione delle informazioni sugli stranieri. Questo è stato il punto, uno dei punti importanti di arrivo del progetto, perché poi da lì abbiamo anche iniziato un dialogo molto stretto con le istituzioni locali per vedere, rispetto anche a quelle che sono le esigenze dei policy makers italiani e del territorio anche di Trento rispetto alle informazioni sull'immigrazione, quello che c'è, le risposte che le statistiche possono dare e quello che ancora bisogna fare nel futuro. E un altro punto importante di arrivo è stato quello della creazione di un database transnazionale molto ricco veramente, che ha permesso di ricostruire in serie storica molte delle caratteristiche del fenomeno migratorio in Italia e nei paesi partner. Permessi di soggiorno, dati sui permessi di soggiorno in chiave storica, dati sui residenti, sugli occupati, informazioni anche appunto sul capitale umano delle persone che emigrano, insomma, quindi tutte informazioni che anche laddove insomma sono carenti qualcosa ci dicono insomma sui flussi e sulle caratteristiche più importanti dei flussi migratori. Grazie davvero Serena, perché tra l'altro c'è questo aspetto, no, che si parla di migrazione e si ha paura, però si parla invece di mobilità come opportunità, quindi il muoversi nelle sue mille accezioni, anche questa è l'Europa. Grazie davvero. Nicoletta, prima di salutarci, il vostro portale, come sempre, come punto di riferimento per chi ha la fortuna di vivere in Trentino, però quello che consiglio io anche a chi ci sta ascoltando da tutta Italia è comunque di dare un'occhiata, perché spesso sono comunque possibilità e segnalazioni utili anche per chi non vive in Trentino, e comunque possono essere esperienze replicabili, e questo insomma non bisogna avere paura a copiare delle buone idee in Europa, giusto Nicoletta? Certo, volentieri. Pagina della provincia, home page Europa. Perfetto, grazie davvero a Nicoletta Clauser, grazie a Serena Piovesan. Gigi, fra poco parleremo di Erasmus, però per imprenditori. Hai voglia di fare Erasmus? Ripartiresti? Io ripartirei subito, anche se purtroppo la mia generazione, quindi è quella che l'Erasmus l'ha visto emergere, ma decisamente uno dei... Beh, d'altra parte l'hai detto migliaia di volte, no? Che è il grande successo dell'Europa Erasmus. Potrebbe essere quello degli imprenditori il prossimo. La mobilità, ma italiana, nel senso del traffico, e poi ancora qua, con l'altra Europa. L'altra Europa. Ancora in diretta con l'Altra Europa, Festival dell'Economia di Trento. Domenica 1 giugno alle 21 presso il Teatro Sociale ci sarà una serata intitolata I Vertici dell'Ignoranza. Nelle classifiche europee l'Italia ha i posti più bassi, non solo per l'investimento di istruzione e ricerca, ma anche per nell'indice di lettura, nei quotidiani, nei libri, nella frequenza ai musei, alle mostre, nel consumo di musica e spettacolo, cioè tutto ciò che fa cultura. È una serata che vedrà la partecipazione di Stefano Fresi, Armando Massarenti, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, e con loro anche la professoressa Elena Cattaneo, che abbiamo l'onore di avere qua con noi in diretta. Buongiorno Cattaneo, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Quanto la fa arrabbiare oggi la parola ignoranza? Beh, parecchio, ma penso che ci siano rimedi, quindi... insomma bisogna lavorare sui rimedi e non sulle arrabbiature. Mm-hmm. E lei tante volte nelle interviste mette proprio al centro lo studio come possibilità, come opportunità, come sacrificio. È da lì che si può ripartire veramente per una società nuova, che sia italiana, europea, mondiale, poco cambia a questo punto, ma è lì, è lo studio il centro di tutto oggi. Beh, sì, perché lo studio è l'unico strumento che ti permette di aumentare le tue competenze, di sfidare strade mai percorse prima, di interagire con chiunque nel mondo, quindi anche insomma di elevare la tua creatività affinché possa competere a livello internazionale. E io credo davvero che gli italiani abbiano tutto per primeggiare, le tante isole felici di studio, di ricerca, di impegno, di risultati che abbiamo in Italia lo dimostrano. Mm-hmm. Insomma, quindi ripartire da lì. Abbiamo citato più volte anche oggi il discorso della mobilità come valore. Anche questa è una cosa in cui lei crede molto. Ma la mobilità, insomma, è un altro mezzo per confrontarsi. Nessuno deve avere paura a uscire, a andare oltre Alpe, a interagire con chiunque nel mondo. Insomma, nella scienza, nella cultura, questo è l'ABC. Insomma, io ho imparato che i confini nella scienza e nella conoscenza non esistono, e gli unici limiti sono dettati dalla nostra immaginazione. Quindi, insomma, lavoriamo di creatività e immaginazione, e ne abbiamo veramente tanta, a pensarci bene. Professor Cattaneo, stavo ripensando un po' anche alla sua vita, no? Di ricercatrice, insegnante, professoressa, senatrice a vita, e qui entra in gioco il concetto di bene comune. Perché non basta forse avere cultura, avere competenze, se poi non si mettono in gioco anche per gli altri? È questo un salto di qualità? Sì, credo che sia una filosofia importantissima. Io sono uno scienziato, dico sempre che la scienza non può bastare a se stessa, così come altre discipline non possono bastare a se stesse, incluso la politica. La scienza per me diventa compiuta nel momento in cui va a beneficio della società, nel momento in cui diventa uno strumento per aumentare la confidenza tra gli uomini, anche per raggiungere gli uomini. E credo che la politica abbia un ruolo essenziale in questo, cioè è l'elemento che deve facilitare questo raccordo, e sogno veramente un'alleanza tra scienza, politica e società. La scienza sembra un po' la disciplina delle domande, la politica dovrebbe essere quella delle risposte. Si riescono a mettere insieme quindi queste due dimensioni? Beh, devono lavorare insieme. Poi si scopre tra l'altro che, insomma, si possono fare cose importanti per il paese insieme. Io sono davvero convinta di questo, insomma, e sono convinta anche che ci siano, insomma, politici nelle aule parlamentari molto sensibili e attenti e pronti a creare queste alleanze. Grazie davvero, professoressa, per questa testimonianza. Ricordiamo i vertici dell'ignoranza, un bel titolo provocatorio, un bel gioco di parole. Credo che vi divertirete anche a smontare un po' e a smussare questi vertici. Grazie davvero, professoressa. Grazie, buona a voi, giornata. Buongiorno. E torniamo in studio. Stavi sorridendo, Gigi. Insomma, ci piace non mettere al centro la cultura. Per noi l'Europa è anche questo. Assolutamente. Poi devo dire che sentire la professoressa Cattaneo fa sempre buon umore. È sempre ossigeno. Torniamo invece a noi, torniamo all'Europa delle possibilità e delle opportunità con l'Erasmus. Erasmus, progetto che conosciamo bene, progetto ventennale che ha messo al centro la mobilità studentesca. Però c'è anche un altro Erasmus molto importante, che è l'Erasmus per gli imprenditori. Questa possibilità che si dà a giovani imprenditori di fare un'esperienza all'estero, apprendere esperienza, apprendere tecnica, apprendere competenze, e poi tutto ciò tentare di riportarlo in Italia. Con noi Alessandra Fagnani, architetto che ha partecipato al programma europeo Erasmus per giovani imprenditori nel 2012, e appunto è qua con noi per raccontarci la sua storia. Ciao Alessandra. Buongiorno a tutti. Io ho partecipato al programma Erasmus for Young Entrepreneurs nel 2012 e sono stata in uno studio di Amsterdam ospite, e ho avuto l'occasione di cominciare un progetto al quale sto tuttora lavorando. È un progetto ambizioso, si tratta di un ecovillaggio a Salizzole in provincia di Verona, ed è il paese da dove vengo. Quindi tu hai vissuto quanti mesi e dove? Ad Amsterdam. Ad Amsterdam quanti mesi? Sono stata 7 mesi e ho collaborato con questo studio che si chiama Urban Symbiosis, si occupa di architettura e urbanistica ad Amsterdam. Questa esperienza è stata molto importante perché mi ha dato uno slancio per cominciare comunque la mia attività. Oltretutto in Olanda c'è un approccio dell'architettura che è completamente diverso a quello che c'è in Italia. Ormai in Italia sono un po' critica, è diventata un po' edilizia. In Olanda invece ha ancora un aspetto di alta forma d'arte, per cui è stato per me molto interessante. Tra l'altro io avevo studiato lì anche, e quindi sapevo esattamente che ambiente andavo a trovare, per cui ho scelto, perché ci sono vari paesi da poter scegliere, ho scelto di andare lì. E l'ecovillaggio, che già per la sua struttura e per la sua concezione ha comunque un respiro europeo, stai tentando di riportare, ricreare questa esperienza qui in Italia, un progetto che sta nascendo, al quale stai dedicando tempo, energia? Sì, lì è cominciata la progettazione preliminare, ora sto andando avanti. Tra l'altro sono alla ricerca di finanziatori o comunque strutture, persone che possono essere interessate allo sviluppo di questo progetto. Si tratta di un villaggio costituito da case in legno, con un occhio al risparmio energetico, all'utilizzo di materiali naturali, al tentativo di essere rispettosi nei confronti dell'ambiente, cercando di riutilizzare le risorse, quali possono essere per esempio una risorsa importante quale l'acqua, uh-huh. alla quale noi non pensiamo, ma in realtà viene sprecata tantissimo. Quindi utilizzo di energie ecosostenibili, con l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, solare termico e tutto quello che può aiutare il risparmio energetico. Ti ha cambiato la vita l'Erasmus? Ma direi di sì, perché comunque qui fare l'architetto oggi è molto difficile, e lì si trova, ho avuto appunto un nuovo spunto, cioè un nuovo inizio. Ho dato inizio al mio studio, Alfa Architettura, e collaboro tuttora con lo studio di Amsterdam, con il quale appunto il progetto probabilmente continuerà, uh-huh. perché loro si potranno dedicare alla progettazione di alcune abitazioni, e quindi si sta cercando di continuare questa collaborazione. Grazie davvero ad Alessandra Fagnani, una storia con la quale chiudere appunto questa puntata, una storia europea, una storia dell'Europa, delle possibilità, l'Europa delle opportunità. In bocca al lupo per il tuo ecovillaggio, facci Crepi, sapere appunto quando nascerà questo pezzettino, questo tassello d'Europa anche in provincia di Verona. Un grazie a Gigi Donelli. Gigi, ricordiamo gli appuntamenti che Radio 24 dedica all'Europa durante la settimana. Ovviamente tutti i giorni Europa 24 alle 14, alle 21:30, e poi naturalmente il gran finale, si può dire, il sabato, cioè, con Federico Taddia. Grazie davvero a Gigi, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa qui in studio a Trento e in studio a Milano. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo, come sempre vi aspettiamo. Radio24.it è il nostro sito per riascoltare le puntate, oppure euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo. Tante voci per raccontare una unica Europa. Ciao e ancora buon sabato. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus. We'll be right back.